con questo intervento vorremmo portare un po' il discorso riguardante il contesto italiano per quanto riguarda la lotta contro il sistema fascista. Vale. Hay que traducir todo. Nada, buenos días a todos. Con esta intervención quisiéramos traer la experiencia italiana de lo que está ocurriendo con el sobre el tema del desarrollo tecnológico. Lo sviluppo della tecnologia nei suoi apparati, nei suoi processi e nelle sue realizzazioni concrete rappresenta il nodo cardine su cui poggia il sistema. El desarrollo de la tecnología en sus aparatos, contando con los proyectos y las realizaciones y sus realizaciones concretas, representa en ese momento el eje de la base del sistema. Es proprio attraverso di essa que el sistema se está rinforzando, se está ristrutturando y está penetrando siempre di più nei corpi. Y justamente a través de ella es como el sistema se está reforzando y reestructurando y de tal forma que entra cada vez más, penetra cada vez más en los cuerpos vivos. Yo proverò a raccontarvi un po' come l'esperienza che abbiamo fatto a Bergamo come assemblea Le Ortiche, cercando appunto di mostrare il panorama del contesto italiano e dei discorsi che vengono fatti in Italia sulle minacce. Intentaremos un poco contaros la experiencia de nuestro colectivo que se llama Le Ortiche, Las Ortigas, y le acciones, ¿no? Que sono parte, sí, y las iniciativas que se han llevado a cabo sobre este proyecto. Lo scorso ottobre a Bergamo si è tenuto il G7 Agricoltura. El octubre pasado, hace nada, en Bergamo se ha llevado a cabo el G7 sobre la agricultura. Que si tratta di due giornate di incontri, di dibattiti, appunto sul tema dell'agricoltura, inseriti in un contesto più ampio, appunto del G7. Han sido dos días, dos jornadas enteras de encuentros y debates sobre el tema de la agricultura, pero dentro del G7 específico sobre este tema. Que se ha tenido appunto en Italia, en varias ciudades. Y el G7 ha sido sí en Italia, pero en varias ciudades a la vez. Con un summit a Taormina y otros encuentros, como appunto quello a Bergamo, su temi quali la salute, l'ecosistema, le tecnologie. La cumbre ha sido en Taormina y luego ha habido encuentros en Bergamo sobre la salud, el ecosistema y tecnologías. Per quanto riguarda appunto Bergamo, che è stato, noi ci siamo interessati a questo per il fatto che si parlava appunto di agricoltura e perché consideravamo importante intervenire portando la nostra voce a questa situazione particolare, proprio perché si trattava di un teatrino del consenso in cui il potere aveva la possibilità di sventolare la sua bandiera verde e mostrarsi vicino ai contadini e all'agricoltura a chilometro zero. Nosotras nos hemos centrado en Bergamo, que es su contexto, y porque allí se han aprovechado mucho quizás de este contexto para llevar la cara bonita, ¿no? De apoyo a la agricultura, al obrero, a la parte de la cara verde, digamos, todo el tema del kilómetro cero, que no sé si aquí también se habla, sí, ¿no? Aquí también se habla del kilómetro cero y tal. Pues eso en Italia está muy en auge y suena muy bien, se vende muy bien ese tema. Se habla de tecnología de ingeniería genética y de modificaciones del ambiente. Se ha hablado de tecnologías, de investigación genética y de... ¿Cómo he dicho el otro? Ah, sí, y de modificación de los organismos genéticamente. con la propaganda di salvare il mondo e trovare le soluzioni alla fame del mondo e ai problemi attuali. El eslogan principal es salvar el mundo, encontrar soluciones a los problemas más actuales del mundo y vamos, eso es la cara bonita de la que hablábamos. Que era un po' lo stesso, cioè, una continuazione del discorso che veniva fatto ad Expo a Milano. Siguiendo al hilo, el discurso che si había hecho en la Expo de Milano. Come assemblee aeronautiche sono state organizzate iniziative di protesta, presidi, distribuzione di materiale informativo. En cuanto a asamblea aeronautiche, ellos han llevado a cabo iniciativas de protesta, concentraciones y se han dedicado a repartir material informativo e anche biciclettate verso le sedi della multinazionale israeliana ad Ama, Italia e biciclettate paseos en bici, bueno sí, pero en grupos grandes. En frente a la sede de Israel, Adama Italia, que es una multinacional israeliana. Ah, vale. El paseo este de las bicicletas es en frente de la sede italiana de Israel, de Adama, que se dedica a la produce veleni, quindi pesticidi. Sí, a la producción de venenos, pesticidas, herbicidas. Y adesso el CREA. Instituto de Experimentación Genética, vale, y también hacia el CREA, que es otro instituto que en este caso se dedica a la experimentación genética sobre la agricultura de los cereales. Tutte queste attività sono state fatte in occasione del G7, ma con una prospettiva più ampia, nel senso che ovviamente queste multinazionali continuano a lavorare, ci sono, e non bisogna fermarsi ai grandi incontri, ai grandi momenti che vengono organizzati da parte dei potenti, ma è sempre necessario intervenire, è sempre necessario parlare di queste questioni e agire. Da parte vostra. En quanto associazione hanno approfittato il hecho del C7 per montare tutte queste attività. Pero sobre todo ellas consideran que por encima del G7 es algo que siempre hay que llevar a cabo, que no es solo cuestión del acontecimiento en sí, sino que siempre hay que ir en contra de todos estos temas. Appunto contro il G7, oltre appunto alla nostra risposta radicale, c'è stata anche un'altra risposta differente, che si è posta come un'alternativa al G7. Quindi critica per quanto riguarda i contenuti, ma appunto che non andava oltre, quindi semplicemente criticava la modalità con cui venivano affrontate le tematiche senza avere una possibilità. L'associazione Leortiche rappresenta in questo caso la contrapposizione più radicale hacia lo che stava aconteciendo. Pero aparte surgió otra iniciativa que se representaba como en contra de todos estos temas, pero en realidad era simplemente otra forma de acercarse. No, ellas consideran que no era para nada radical, sino que... ¿cómo puedo decir? Sí, ellos intentaban más bien ofrecerse como una alternativa a eso. Nel momento in cui tu ti poni come alternativa stai riconoscendo l'altro come interlocutore e quindi ti poni in dialogo e questo fa semplicemente il gioco del potere perché si può appunto può utilizzare il discorso democratico per cui l'ascolto delle varie opinioni anche per prendere in considerazione le posizioni diverse magari integrarle dentro di sé e questo non fa altro che migliorare il sistema infatti non a caso sin embargo, ellas consideran que para empezar, si tú te acercas a ese tema representándote como una alternativa, estás otorgando al otro el hecho de ser un interlocutor. Y estás asentando las bases de un diálogo, cosa que ellas consideran que ni siquiera debería ocurrir. Y aparte todo eso, forma siempre parte de un modus operandi más bien democrático. Sigue siendo, no, es una alternativa, pero sigue formando parte del sistema y realmente no está cambiando nada. Uh-huh. Sí, y non solo non sta cambiando niente, ma si pone proprio a braccetto. Y no solo, claro, consideran que no solo no lo está cambiando, sino que van de la mano, que incluso está ayudando, que con la frase de verde consiguen enmascarar otras cosas que realmente no cambian nada. Per esempio, si può fare riferimento al discorso sul glifosato che c'è stato in Italia. Y por un ejemplo puede ser el tema del glifosato, que es un pesticida que sí que se ha llevado a cabo en Italia. Contro questo pesticida, contro il glifosato, si sono mosse diverse realtà e molte sigle dell'ambientalismo si sono mostrate molto contente quando il discorso si è portato in Parlamento. Sobre este tema se han movido muchos entes de la parte verde del movimiento italiano y todos se han mostrado interesados y han aplaudido que este tema, por ejemplo, se llevara al Parlamento. In Parlamento si è deciso di togliere le cosate dal mercato, ma ad un occhio più attento ci si può accorgere che sono stati tolti soltanto quei prodotti che associati al glifosato avevano un'altra sostanza e quindi la minoranza. Sì, se non lo capisco. Praticamente al mio Parlamento si è deciso di eliminare il fatto del glifosato, ma non soltanto, non tutti i prodotti con il glifosato. Soltanto quei prodotti che erano associati ad un'altra sostanza. Ad un'altra sostanza, quindi veramente erano pochi. Y entonces se ha visto que en el Parlamento, se ha visto como victoria, digamos, que en el Parlamento se ha decidido finalmente quitar este pesticida, pero luego en realidad, mirándolo bien, lo que ha salido del Parlamento es que se ha quitado de algunos productos siempre que estuviera asociado a otra sustancia. O sea que en realidad es solo un pequeño resultado. Y esto es bastado per spegnere gli animi che si erano mossi contro il glifosato e chiudendo quella discorso. Y sin embargo, con eso han obtenido que se apagaran las luchas que se habían empezado sobre ese tema, por ejemplo, y así se ha cerrado el discurso. En questo modo el sistema si è posto come un sistema accogliente nella posizione delle associazioni, delle piccole associazioni di ambientalisti che dicono. Claro, y aparte, de cara al sistema, se ha visto que el sistema acoge las iniciativas de las pequeñas asociaciones e interviene y las resuelve. Gli interventi, tutto quello che è legato all'ingegneria genetica, che si è visto manifesto e portato avanti durante le giornate del G7, è sempre presente. E quindi bisogna sempre agire e muoversi con lui. Todas las intervenciones que han ocurrido a raíz del G7 siguen presentes y por eso hay que tomar medidas sobre esos temas. Un'altra attività, un altro momento che ci ha visti presenti con un presidio è stata la giornata di apertura dell'Università della Singolarità a Milano. Otro momento en el que se han visto involucradas ha sido la jornada de la apertura de la Universidad de la Singularità, que ahora supongo que lo explicarás, en Milán. Appunto, la singolarità è un termine che è stato utilizzato da Kurzweil una mujer transhumanista. Sí, singularidad es un término que ha utilizado Kurzweil, que es un transhumanista. Identifica el momento en cui l'umano si unisce con la macchina, identifica el momento en el que el humano interacciona con la macchina convirtiéndose en cyborg. Era la prima volta che si che dei transumanisti di questa della singolarità organizzava un incontro in Italia. È stato veramente importante la nostra presenza, il nostro esserci. La presencia de la asociación, consideran que la presencia de la asociación fue muy importante porque era la primera vez que se llevaba ese tema en Italia y era un momento histórico, ¿no? Uh-huh. Y eso, y ella consideraba muy importante estar presentes en un momento así. Sí. Sono arrivati studiosi, imprenditori, scienziati e influencer provenienti da tutto il paese. En esa ocasión llegaron estudiosos, empresarios, científicos e influencers de muchos de todas partes del país, de Italia. Anche qui l'incontro era puntava verso la soluzione delle grandi sfide a cui va incontro l'umanità attraverso la tecnologia. El tema central de este encuentro, una vez más, era la encontrar una solución al empleo, no, a los grandes desafíos de la humanidad a través del empleo de la tecnología. Era explícitamente rivolto ai leader e quindi ai potenti y el encuentro ha sido montado especialmente pensando en los líderes y en los grandes, en los pudientes del mundo. Si vede come ci sia una prospettiva, un desiderio di spingere sempre di più verso l'artificializzazione del mondo, la tecnologizzazione della vita e sempre più per basare la tecnologia. A raíz de esto, lo que reflexionan es que se ve cada vez más que están empujando hacia la penetración de la tecnología en todo lo que es la vida humana, en el sentido de ser humano y todo lo que le rodea. Importante, pero, es no puntar soltanto al transhumanismo como problema, porque, por ejemplo, riguardo all'Istituto Italiano di Tecnologia, que es un instituto que se ocupa de tecnología e inteligencia artificial. Es importante no mirar solo al tema de los transhumanistas, sino también al tema de la tecnología artificial, bueno, de la tecnología en general, dice ella, y de la tecnología artificial. Por ejemplo, cuanto riguarda al Instituto Italiano de Tecnología y su director Cingolani. Un ejemplo es el Instituto Italiano de Tecnología y su director, que es Cingolani, con diversi dibattiti, lui è molto attivo, quindi è molto presente alle università, in incontri. Ad ogni incontro si pone proprio in modo, esprime la sua differenza dai transumanisti. En cada encuentro este hombre, aparte es una persona muy activa a nivel universitario y a nivel de debates, se pone siempre en contraposición a los transhumanistas. Habla de transhumanistas como personas excesivas, que casi religiosas, que consideran la tecnología una nueva religión y contrapone a esta una visión humana de la tecnología buena que possa ayudar a los humanos. Su retórica es representar los transhumanistas como excesivos, excéntricos, casi rozando la religión, y sin embargo su postura es mucho más humana, mucho más cercana y buena. la tecnologia che lui riporta, infatti, serve nel campo medico soprattutto, nel campo della risoluzione di problemi. Da risolvere problemi legati all'inquinamento. La tecnologia che él representa, sin embargo, se dedica al campo médico, a resolución de problemas, al tema del inquinamento, contaminación. È proprio importantissimo vedere quanto la tecnologia si apre a un nuovo mercato. Cercando di risolvere con mezzi tecnologici i problemi che essa stessa crea attraverso le proprie tecnologie. Lo che è molto importante è vedere come la tecnologia si aprovecha e apre nuovi mercati proporzionando soluzioni a problemi che ella misma ha creato. E la natura diventa un esempio da imitare, con delle caratteristiche specifiche da studiare e da sfruttare al meglio. Así que la naturaleza se convierte en un ejemplo a seguir con unas características específicas que hay que estudiar y aprovechar cuanto más mejor. Come per esempio si sta studiando un albero robotizzato di cui le radici possono muoversi come le radici della pianta nel terreno e identificare, selezionare e mostrare all'umano quali sono le sostanze presenti nel terreno. Un esempio è un árbol robotico cuya raíces analizan la tierra y nos comunica las sustancias necesarias para que se sustente. Y supongo que no, quelle che producono di più, quelle che di meno, no, sceglierà le sostanze migliori. No, non è una questione di scegliere le sostanze migliori, è più un'analisi del terreno quanto. Ah, no, studia le caratteristiche della terra e riporta il livello di contaminazione della terra. Tutti il metodo di Cingolani è proprio molto funzionale al inserire all'interno della società nuove tecnologie attraverso l'accettazione sociale. La metodología que utiliza Cingolani, el director, es mira a insertar las nuevas tecnologías en la sociedad, a conseguir la aceptación de parte de la sociedad de esas nuevas tecnologías. La modificación genética del vivente es figlia de este sistema. Trova un suo posto, una sua utilità soltanto all'interno di una logica di crescita e di innovazione costante, senza riguardo per le conseguenze sociali ed ecologiche. La modificazione genetica del ser vivo è hija di questo sistema e encuentra su lugar en la utilità in una logica di crescimento e innovazione costante, sin mirar a las consecuencias sociales y ecológicas de lo que eso conlleva. El mundo, quindi, diventa un enorme laboratorio experimentale in cui il corpo e il vivente diventa scomponibile, manipolabile, modificabile, migliorabile. Y de esta forma el mundo entero se convierte en un laboratorio de experimentación y el ser vivo, ¿no? El mismo se puede descomponer y estudiar como si fuera algo como se aprovechable. Ciao a tutti, io vi parlerò dell'esperienza della collezione contro l'incinità e del ruolo dell'EFSA, che è l'ente e l'autorità di sicurezza alimentare. Ok, ella hablará de la coalición en contra de las nocividades y del rol del EFSA y sí y del rol que tiene la EFSA, de la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria a Parma. Sí, que es una autoridad que reside en Parma y es la autoridad europea por la seguridad en la alimentación. La coalizione contro ogni nocività era un collettivo formato da svariati individui provenienti da varie esperienze di lotta ecologista radicale e anarchica verde. E per svariati anni abbiamo portato avanti svariate mobilitazioni. Esta coalición de la que hoy viene a hablar es un colectivo formado por individualidades que vienen de varias experiencias de la lucha radical en contra de las nocividades y de situaciones anarquistas verdes. Abbiamo organizzato mobilitazioni fino al 2010 contro le multinazionali Bayer e Monsanto. Hasta el 2010 montaron varias movilizaciones, sobre todo en contra de Bayer y Monsanto. Contro l'entrata degli OGM in Europa. En contra de la entrada de los OGMs, que son los organismos genéticamente modificados en Europa. Contro el ruolo dell'EFSA. E contro dei Bionano Forum. En contra del rol en sí que tiene la EFSA y en contra del forum Bionano. I Bionano Forum sono appuntamenti internazionali molto importanti e rappresentano il punto di incontro tra il mondo della ricerca e quello dell'industria per dare un mercato ai risultati delle ricerche e delle innovazioni nel campo delle bionanotecnologie. I Bionano Forum son unos congresos, unos encuentros que son internacionales y que lo que quieren obtener es encontrar un lugar para la investigación científica y sobre todo dar lugar a un mercado para los resultados de las investigaciones y todas las innovaciones que están ocurriendo en el campo de, de las biotecnologías. Quest'anno in Italia, a ottobre, ci sarà ancora un altro appuntamento simile con un altro Bionano Forum e noi come esperienza bergamasca saremo ancora presenti con una contestazione. Por ejemplo, este año en octubre se dará lugar a otro encuentro muy similar, y ellas como asociación y como respuesta de ahí de Bergamo estarán presentes. Nel 2009 a Parma contro l'EFSA abbiamo organizzato un momento di protesta con un allucchettamento sopra il tetto dell'EFSA e abbiamo srotolato uno striscione in una gru dietro all'EFSA. En 2009 algunas compañeras y compañeros se ataron en el techo con candados y a través de una grúa tiraron una pancarta como acto en contra de la EFSA, de esta asociación. Allucchettamento, no sé si es claro, cuando son delle pratiche utilizzate molto negli ambienti ecologisti in Inghilterra. Pensiamo alle mobilitazioni di Earthers e quindi dove ci si appunto allucchetta il collo, le mani come protesta. Se ha entendido, pero eligieron este tipo de protesta no a caso sino porque por todo lo que representa, llamando las protestas en Inglaterra y porque es una práctica que significativa parte del hecho en sí. Questa iniziativa era un'iniziativa che faceva parte di un percorso contro l'ingegneria genetica in vista di un corteo nazionale che avevamo organizzato a Parma per portare l'attenzione proprio sul ruolo dell'EFSA in un periodo particolare, perché in quel periodo, nel 2009, doveva esprimersi per l'autorizzazione di un mais OGM della Monsanto, il Mono 810, e il riso OGM della Bayer, le Rice 62. Si ha hecho en ese momento porque formaba parte de todo un recorrido que ellos habían tenido en contra, sobre la lucha en contra de la ingeniería genética, que finalmente había terminado en una manifestación nacional allí en Parma, como llamamiento a lo que tenía que ocurrir en ese momento, ya que la EFSA tenía que dar una respuesta acerca de los temas del MON-810, que es el maíz genéticamente modificado de lo que se encargaba Monsanto, y del tema del arroz de Bayer, que es otra sigla, el RAIS 62. L'EFSA è stata istituita a Parma nel 2002 ed è simile alla FDA americana. La EFSA se constituye en Parma en 2002 y es tremendamente parecida a la FDA estadounidense. È un organismo europeo riconosciuto a livello internazionale a cui la Commissione europea fa riferimento in materia della valutazione dei rischi per la sicurezza di alimenti, mangime, salute di animali, nutrizione, protezione e salute delle piante. La EFSA in realtà es un organismo reconocido por la Unión Europea que es una referencia a nivel internacional sobre temas de la evaluación de los riesgos para la seguridad de los alimentos, los piensos para los animales, la salud de los animales y temas de nutrición, protección y salud de las plantas. Loro parlano di valutazioni, ma in realtà non sono semplici valutazioni. Claro, ellos se refieren a evaluaciones, pero en realidad no son sencillamente evaluaciones. L'EFSA è l'anello di congiunzione tra multinazionali, i vari produttori di nocività e la Commissione europea. La EFSA es el nexo de unión, ese anillo que junta las multinacionales, los diversos productores de estas nocividades y la Comunidad europea. Le sue valutazioni, le sue relazioni scientifiche sono il passaggio obbligato per ottenere l'autorizzazione e la commercializzazione, la diffusione di ogni nocività. Si todos estos agentes quieren obtener autorizaciones para poder luego comercializar y lucrarse y desarrollar cualquier cosa sobre estas nocividades, tienen que tener primero los informes de parte de la EFSA. Sí, exacto. Si no c'è l'ok dell'EFSA, non c'è la diffusione a livello europeo di ogni prodotto. Si a través de los informes de la EFSA si los informes de la EFSA no son positivos, si ellos no dan el ok, no habrá luego una difusión de esos productos. A vari gruppi di ricercatori che lavorano su additivi, aromi, integratori alimentari, pesticidi, BSE, influenze aviarie, mangimi, clonazione, OGM, nanotecnologie. Tienen varios grupos de investigadores que se dedican sobre todo a trabajar sobre aditivos, aromas, integradores alimentares, pesticidas, EEB, que es encefalopatía espongiforme bovina, gripe aviaria, piensos, clonación, organismos modificados genéticamente y nanotecnologías. E sono dei comitati scientifici che ad esempio collaborano anche con varie organizzazioni mondiali per la cooperazione e lo sviluppo economico, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, vari organismi internazionali, insomma. Y también son comités científicos que se dedican a la y colaboran con la Organización Mundial de la Salud, Sanidad Animal, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Organización Mundial de la Salud y otros muchos entes internacionales. Dal 2006 l'EFSA si esprime anche sulle nanotecnologie e quindi sulla diffusione di nanoparticelle e sui nanomateriali inseriti in vari tipi di prodotti, alimenti e mangimi. Y además, desde 2006 la EFSA produce informes sobre nanotecnologías, la difusión de las nanopartículas y los nanomateriales que están insertados en los productos alimenticios y piensos. Il ruolo principale dell'EFSA in merito agli organismi geneticamente modificati è di valutare ogni rischio per la salute umana, animale e per l'ambiente. Realmente a lo que se dedica la EFSA, el rol principal que tiene es evaluar todo lo que conlleva el tema de los organismos genéticamente modificados y lo que supone en cuanto al riesgo para la salud humana, animal y para el medio ambiente. Può autorizzare la commercializzazione di prodotti alimentari OGM, anche inseriti come ingredienti nei mangimi, la semina in campo aperto a scopo sperimentale e la coltivazione commerciale per uso alimentare umano e animale. Finalmente es la que autoriza la comercialización de los productos alimenticios que estén genéticamente modificados, los ingredientes en alimentos y piensos, la siembra en el campo con fines experimentales y el cultivo comercial para uso alimenticio, sea animal o humano. Obviamente la sua agenda è piena di richieste da parte delle multinazionali agrobiotecnologiche che premono per vedere diffusi i loro prodotti OGM. Desde luego la agenda della EFSA sta llena di pedidos por parte de todas las multinacionales agrobiotecnológicas que cada una de ellas presiona para difundir sus productos genéticamente modificados. L'EFSA non autorizza direttamente il passaggio di OGM, lì ci vuole la Commissione Europea. Però, come dicevo prima, la sua valutazione non è un semplice parere, perché una sua posizione positiva è necessaria per questa autorizzazione della Commissione Europea. Es retorcido porque no es que autorice directamente la entrada de un OGM, pero sin su evaluación positiva eso no puede entrar. Entonces, la cara la da la Comisión Europea, pero realmente es crucial que la EFSA dé una evaluación positiva. E proprio la Commissione Europea su questioni spinose, controverse, complesse come gli OGM rimanda all'EFSA. E quindi l'EFSA è proprio il fulcro del sistema europeo di decisione. Y sobre todo en cuestiones más complicadas, la Unión Europea siempre las manda a la EFSA. Y entonces, en realidad, la EFSA lo que constituye es el eje de todo este tema, porque el sistema europeo toma decisiones en cuanto a la respuesta que ella da. È curioso sottolineare che ovviamente ogni valutazione della richiesta da parte di una multinazionale per diffondere il loro prodotto viene esaminata in base alla documentazione scientifica della stessa multinazionale che chiede la diffusione del prodotto. Sì, risulta molto curioso che tutti gli analisi che si fanno per valutare uno di questi prodotti se llevan a cabo sobre las mismas documentaciones científicas que aporta la multinacional que está demandando ese informe. Basta, Syngenta, QS, Bayer, Pioneer, Monsanto, queste ad esempio sono alcune multinazionali clienti dell'EFSA che da anni stanno anche cercando di rompere le resistenze europee in campo di OGM. BASF, todas las asociaciones que acaba de decir, son algunas de las que están empujando a través de la EFSA para romper el muro, entre comillas, que representa la Unión Europea para meter en el mercado los OGM que ellas quieren meter en el mercado, pero en realidad son clientes de la misma EFSA. Como coalición contra ogni nocività, el significado que volvamos. Che vogliamo dare ora al termine nocività è un qualcosa di più ampio, è un qualcosa che va oltre alla capacità di interferire, di danneggiare la salute di un organismo o di un ecosistema. E come nocività intendiamo il sistema stesso. Nosotras queremos subrayar que en cuanto al término de nocividad, consideramos que no es simplemente la capacidad de intervenir en la salud de un organismo o de un ecosistema, sino que nosotros entendemos nocividad como el mismo sistema. Quello che vogliono farci credere i potenti è che non c'è ormai più speranza, che ormai la natura è è compromessa e che non ci sia via di uscita, insomma. Stanno a ribaltare questa concezione e il percorso che abbiamo sempre ritenuto necessario intraprendere, quello della lotta. E nos pertenece luchar en contra de lo que están intentando hacernos creer, que es que ya la naturaleza está dañada, no hay remedio ni esperanza y no se puede salir de ese círculo que el mismo dominio ha montado. E ribaltiamo questa concezione e quello che noi abbiamo sempre ritenuto fondamentale, intraprendere dei percorsi di lotta, di opposizione. Consideramos fundamental darle la vuelta a esta concepción y nuestra trayectoria consideramos que es necesaria y que es a través de la lucha.